Ciao, io sono Nita. Ciao, io sono Florette. E siamo due clown. Si dice che nel tempo della crisi escono i clown, perché i clown sono irriverenti, sono anche un po' subiscono dalla vita e quindi parlano un po' di tutti noi in questo momento. E questo era uno scherzo per i nostri ascoltatori e insomma, per noi parlare di clown è parlare del mondo che ci circonda, vederlo anche criticamente e politicamente, ma vederlo sempre con un occhio che è capace di ridere delle piccolezze, della poesia delle piccole vite, della poesia delle piccole cose anche, e che insomma parla col corpo in un momento in cui il corpo è o il grande assente o il grande o il troppo presente, quindi è una forma anche di riappropriazione del corpo, della propria corporeità, del conoscere se stessi da un punto di vista proprio esperienziale, profondo, e per noi, per me, anche politico. Anche per te, Florette, sei d'accordo? Sì, totalmente sì. Con tutto quello che ho detto? Con tutto quello che ho detto. Perfetto. E e quindi insomma siamo molto contente di essere qui in questo bellissimo spazio di ZK. Beh, poi queer nel senso che è uno spettacolo che parla di amore tra donne, parla di sessualità, e quindi è uno spettacolo che ovviamente propone un discorso diverso dal discorso normativo, eterosessuale, sessista, omofobo, e quindi è anche il nostro modo di reagire a tante cose che non ci piacciono, quindi di tutto questo senza parole. E ho parlato così tanto, appunto, il nostro spettacolo, sì, muto. Va bene, com'è nato ve lo racconto, perché è anche abbastanza divertente, nel senso che noi ci siamo conosciute a un corso diciamo sul clown, e ci siamo piaciute, cioè, e quindi io sono tornata a Roma e le ho telefonato e le ho detto: senti, ma ti va, lei, perché lei è di Maiorca, vero? Sei di Maiorca? Sì, sono di Maiorca. Sì, lei è di Maiorca, e quindi le ho detto: ma perché non vieni? Facciamo un numero di clown, intanto io ti faccio conoscere la vita lesbica di Movimento Romana. E lei è venuta e si è data da fare, insomma, su entrambi i fronti. La sa anche lei, quindi lascio la parola alla mia socia. Sì, totalmente. Ok. Sì, è il nostro primo progetto, se volete io posso attaccarvi un pippone anche su questo, però non so se abbiamo altro tempo. Se no, scherzo, vi guardate lo spettacolo che è muto, con noi partecipa anche la clown giovane e la Lazzo, e che ringraziamo ovviamente, e speriamo che vi piaccia, insomma. Comunque volevo dire che io sono venuta a ZK perché, avendo studiato il vostro curriculum, ad esempio il calcio quello umano, il biliardino umano, i giochi senza frontiere, credo che siano esperienze dove anche voi abbiate sperimentato la vostra parte clown. Sì,